chiquito, suco, suco, volan cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, chiquito, suco, suco, volan balar. Diventando di moda in tutte le capitali e gli assistente per strada, un ritornello cantare chiamato suku suku, molto facile da imparar. Ai ai ai ai chiquito, suku suku volan cantar. Ai ai ai ai ai chiquito, suku suku volan balar. Tra lo splendor tropical, arena in soli declina, il cielo la luna riappare in camicia, suku suku, suku suku, su vol danzar. Ai ai ai ai chiquito, suku suku, volam cantar. Ai ai ai ai chiquito, suku suku, volam balar. Chiquito, suco, suco, volan cantar. Ay, ay, ay, ay, ay, chiquito, suco.